Montecitorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, bentornati a Montecitorio e dintorni. E noi oggi, questa mattina, ci vogliamo collegare con Bari, perché a Bari si trova Raffaele Fitto, deputato del PDL, per una grandissima manifestazione organizzata dal Popolo della Libertà. Che cosa chiederete dalla piazza? Perché scendete in piazza, onorevole Fitto? Ma innanzitutto buongiorno, noi organizziamo questa grandissima manifestazione con il presidente Berlusconi qui a Bari, dopo quella di Piazza del Popolo, innanzitutto per continuare a mantenere sempre saldo e forte il rapporto col nostro elettorato. Scendiamo in piazza perché è un momento delicato della vita politica del nostro paese, si eleggerà a giorni il Presidente della Repubblica e noi siamo impegnati perché il Presidente della Repubblica sia non di parte ma sia un Presidente di garanzia, e poi siamo impegnati anche per dar vita ad un governo che sia un governo stabile, responsabile, in grado di affrontare le gravissime emergenze economiche che ha oggi il nostro paese. In questo senso il Presidente Berlusconi oggi pomeriggio in piazza presenterà le nostre 8 proposte che in materia economica potranno realmente dare un contributo decisivo a far sì che riprenda la crescita in Italia. In Piazza della Libertà arriveranno 600 pullman. Una domanda che riguarda un po' il finanziamento ai partiti: chi li ha pagati questi pullman? Perché ci sono state un po' di polemiche la scorsa manifestazione, no? Repubblica diceva che chi era venuto a Roma nel PDL a Piazza del Popolo era stato un figurante, un pensionato pagato con 10 euro per la gita. Diciamo che chi dice questo oscilla fra il ridicolo e l'offensivo, e per evitare queste polemiche, visto che si parla spesso di finanziamento pubblico ai partiti e su questo si è aperto un dibattito molto forte con tantissime polemiche, abbiamo ritenuto opportuno in modo trasparente affrontare la questione. Ieri sera abbiamo tenuto una cena con la partecipazione di centinaia di imprenditori, professionisti e cittadini simpatizzanti che hanno dato un loro contributo, piccolo contributo, che complessivamente copre per intero i costi della manifestazione. In modo molto chiaro, e questo è un modello che noi riteniamo si possa proporre in modo anche evidente per il futuro del nostro paese. Ecco, i saggi hanno detto appunto però che il finanziamento pubblico ai partiti è ineliminabile, altrimenti la politica in pratica la farebbero solo i ricchi. Ma evidentemente questo pone il problema anche collegato a questa nostra iniziativa. Da una parte si discute della necessità di sopprimere il finanziamento pubblico ai partiti, e dall'altro, quando si organizzano iniziative come quelle che abbiamo fatto noi, autofinanziandocela, c'è chi vuol costruire inutilmente le polemiche. Io mi auguro che nel prossimo futuro si possa trovare una sintesi che sia quella di un contenimento forte del finanziamento, ma che possa essere dato vita ad una chiara apertura sul fronte del sostegno privato. Quando noi proponiamo la soppressione del finanziamento pubblico ai partiti, proponiamo anche un modello alternativo, e quello qui di Bari, della Puglia, che noi abbiamo messo in campo va esattamente in questa direzione. Allora, adesso le faccio delle domande flash su questo lavoro dei saggi, no? E lei mi dice cosa ne pensa, se è d'accordo oppure no. Allora, abbiamo detto finanziamento pubblico ai partiti da eliminare, monocameralismo. Ma è una nostra proposta da sempre, quindi da condividere. Esodati come prima emergenza e rimodulazione dei mutui. Ma sicuramente questa, insieme alle altre, noi abbiamo sul fronte della pressione fiscale alcune proposte chiare che per noi sono prioritarie tanto quanto questa. Poi i saggi dicono anche forse è meglio ritornare al Mattarellum, magari senza scorporo. Nei giorni scorsi ho detto una proiezione dei dati elettorali ultimi sul Mattarellum che non avrebbe dato la governabilità. Vediamo, riforma elettorale sì, le modalità devono essere collegate ad una riforma più ampia di carattere costituzionale. Come è noto, noi guardiamo positivamente alla elezione diretta del Presidente. 480 deputati, 120 senatori. Lo avevamo già fatto e un referendum lo ha abrogato, ma questa riforma costituzionale che prevedeva il dimezzamento dei parlamentari, il centrodestra nel 2004 l'aveva approvata, proposta, e poi appunto fu un referendum a bocciarla, quindi per noi è sicuramente un qualcosa di già fatto e che condividiamo in pieno. Contemplare pagamento e rispettare il termine dei 30 giorni per il debito della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. sono temi, questo è un tema sul quale noi siamo già fortemente impegnati. Sono considerazioni condivisibili anche perché quasi tutte queste per noi hanno costituito già oggetto di impegno, di dichiarazioni e in qualche caso anche di provvedimenti. Io indico anche delle mancanze per quanto ci riguarda, che sono esclusivamente quelle collegate al tema della riduzione della pressione fiscale, che è uno dei temi centrali per noi e fondamentale per il futuro del nostro paese. Senta, ha sentito Flavio Tosi, il sindaco di Verona, alla Zanzara, qui a Radio 24, ha detto: tra Renzi e Berlusconi sceglierei Renzi come premier. Ai ai ai, uno strappo nel centrodestra. Guardi, con decine di migliaia di persone saremo con Berlusconi in piazza. E un'altra cosa invece, visto che Barca è sceso in campo nel Partito Democratico, che cosa ne pensa di questa discesa? Io conosco personalmente Fabrizio Barca, abbiamo collaborato sia quando io ero ministro che successivamente, portando avanti un percorso comune e condiviso anche nella sua esperienza di ministro, quindi di Fabrizio Barca ho sicuramente stima e nutro verso di lui amicizia, quindi comunque al di là della collocazione politica lo ritengo un fatto molto positivo. Quirinari e online del Movimento 5 Stelle, che sono state un po' burrascose, direi. Non abbiamo esperienze positive delle primarie online, quindi anche delle quirinarie, perché adeguati e positivi in questo senso nei mesi scorsi, quindi penso che sia, come la Costituzione prevede, giusto che il Parlamento interpreti al meglio la sua funzione, delega il Presidente della Repubblica autorevole e adeguato a questa fase politica. Ringraziamo l'onorevole Raffaele Fitto, che sarà in piazza Bari oggi con Silvio Berlusconi, il Popolo della Libertà in piazza Libertà, e ricordiamo anche per par condicio che il segretario PD Pierluigi Bersani invece sarà in piazza a Roma per una manifestazione sulla povertà. Grazie e arrivederci, onorevole Fitto. Grazie a voi.